Buonasera e ben ritornati a questa nuova puntata di Meteo FM. Chi vi parla come sempre dagli studi di Radio Kairos presso il TPO di Via Casarini a Bologna è Claudia Mighty Mau per una nuova puntata appunto della settima stagione di Meteo FM. Siamo al 12° episodio ed è dedicato alla storia di una band, all'arco umano e musicale di una band il cui nuovo disco uscito il 26 febbraio scorso è praticamente il capitolo finale. Stiamo parlando di School of Seven Bells, scritto e il titolo omonimo dell'album è la allitterazione del loro nome, ovvero SVII come il 7 romano e la B, Svib diremmo noi, che è appunto il capitolo finale dove si racchiude insomma tutta la relazione tra i membri fondatori, le anime principali che hanno portato avanti fino alla fine questo sogno, questo progetto, cui ora ci ascoltiamo come sempre il pezzo di apertura A Blaze. Ovvero In Fiamme è una costante metafora di questo disco, che parla molto appunto di fiamme, di fuoco, di un qualcosa che brucia e che è indistruttibile e inestinguibile, come il rapporto profondissimo al di là della vita e della morte, della relazione, dell'amore finito, ma che ha sempre continuato ad esistere indissolubile per un legame creativo costante tra le due anime di questa band, ovvero Alejandra Deza e Benjamin Curtis. Benjamin Curtis è venuto a mancare poco più di 2 anni fa e questo insomma è il tributo, l'album che segna la fine di questa vicenda, basato su un materiale che però è stato concepito, è stato buttato giù insomma nella sua struttura di base, nella sua ossatura, prima ancora che si avesse la consapevolezza della malattia, una forma rara di linfoma, di leucemia, che ha colpito Benjamin Curtis all'inizio del 2013. In una idilliaca sessione di registrazione durante l'estate del 2012 furono gettate le basi di questo che poi è un disco che è stato completato con l'aiuto di Justin Bedell Johnson, direttore musicale di Beck, famosissimo bassista riccio, alto, allampanato, che poi ha prodotto e ha suonato come session musician per tantissimi nomi. Vengono sempre nominati Nine Inch Nails come MAT3, e anche con l'aiuto di Claudia Claudia, la gemella identica di Alejandra, con cui a 21 anni andò a New York nel 2001, nate in Guatemala da genitori costaricani e boliviani, cresciute poi dall'età di 9 anni a Miami nel sud della Florida, Alejandra aveva il sogno di diventare poetessa e, diciamo, per un malinteso viene presa per musicista, gli viene affidato uno slot, uno spazio per una serata, per un concerto. Allora lei chiama i rinforzi di sua sorella Claudia e nasce l'avventura di On Air Library, ma l'avventura invece di School of Seven Bells nasce nel 2007 con un primo singolo che si chiamava My Cable, poi contenuto nell'album di esordio molto molto apprezzato Alpinisms del 2008, un'influenza veramente palpabile nel cantato, nelle melodie vocali, è quello dei Cocteau Twins, e manco a farla apposta, questo primo singolo del 2007, questo 7 pollici, ha come B-side un remix di Robin Guthrie, l'anima musicale dei Cocteau Twins, e per questo l'abbiamo voluta unire My Cable. Come si è potuto sentire il passaggio, stiamo ascoltando adesso in finale la versione di Robin Guthrie, un'ispirazione, quelle Cocteau Twins, come anche questo suono un po' cosmico, che secondo me è un po' anni 90, un po' Madonna Ray of Light, un po' i momenti più misticheggianti dell'Alanis Morissette, una grande influenza dell'Oriente, soprattutto i suoni indiani, si può sentire nelle ritmiche dei primi pezzi dell'album, dei primi singoli come Alpha Sleep, questo My Cable e anche Face to Face on High Places. Per, diciamo, un'aspirazione cosmica che ha sempre avuto School of Seven Bells, ma appunto non potevamo esimerci con molto piacere dall'ascoltare i Cocteau Twins. Sì, potevano esserci pezzi musicalmente più simili, infatti diciamo che il riferimento ai Cocteau per me è quello più relativo a anni più recenti come Heaven or Las Vegas o Four Calendar Café, però poi un po' riascoltando il mio cuore è qui, a Ikea Guinea, 1985. e chiamiamola celestiale, che è Guinea dell'EP omonimo dei Cocteau del 1985, per appunto raccontare un po' il background di School of Seven Bells. Come dicevo, Claudia e Ali, Alejandra De Esa, nascono in Guatemala, da genitori costaricani boliviani, crescono poi a Miami, si trasferiscono poco più di 20 anni a New York e appunto per caso formano una band che si chiama On Air Library, ogni parola seguita da un punto esclamativo, insieme a Philip Wong. Insomma, cominciano a suonare poi nella scena newyorkese, specificatamente la scena di Brooklyn e Williamsburg, dove bazzicavano un sacco di band. Era un periodo di grandissimo fermento, lo diciamo sempre, nominiamo sempre quegli anni lì, e dove c'erano anche soprattutto gli Interpol. Ed è grazie ad un tour statunitense nel 2004 con gli Interpol che Alejandra e Claudia incontrano Benjamin Curtis. Benjamin Curtis era in tour con le altre due band, con la sua band, ovvero Secret Machines, insieme a suo fratello Brandon e a Josh Garza, nati in Oklahoma, trasferitisi a Dallas per fondare questa band, poi via Chicago, arrivano anche loro a New York. Nel 2000 Alejandra e Benjamin, coetanei, in classe 1978, e Alejandra racconta che fu solo quando furono arrivati a suonare alle date di Los Angeles e San Diego che finalmente si guardarono negli occhi, parlarono direttamente e in quel momento, da quel momento divennero inseparabili. Anzi, di più, Alejandra ha avuto la sicurezza di averlo conosciuto in vite passate, che sicuramente lo rincontrerà ancora, e decidono insomma di fare un altro progetto musicale insieme. Alejandra dice, ovviamente volendo fare qualcosa di nuovo, non aveva senso continuare su questo stesso stile musicale, anche perché poi era una musicista molto molto in erba, quindi comincia già a pianificare, a progettare, ad avere un'idea anche musicale di School of Seven Bells, e diciamo lo avvia, in quanto poi Benjamin era impegnato in Secret Machines con un secondo disco, con un tour anche con U2, niente meno. Ma questo appunto è uno dei pezzi di On Air Library, si chiama Fab. Finisce così Fab, brano degli On Air Library, contenuto nel loro album omonimo del 2004. Abbiamo parlato dell'altra anima che proveniva musicalmente dai Secret Machines, un gruppo che si iscriveva nella tradizione insomma dell'alternative rock molto americano e chitarroso. Infatti Benjamin Curtis è fondamentalmente chitarrista, come lo è rimasto anche in School of Seven Bells, e ci ascoltiamo dal secondo album, Ten Silver Drops, Lightning Blue Eyes. You just gave in. stiamo ascoltando Lightning Blue Eyes, tratto da Pencil the Drop, l'album dei Secret Machines, dopo il quale Benjamin lascia la band nel 2007 e si ricongiunge con la sua anima gemella Alejandra Deza, che aveva avviato il progetto School of Seven Bells insieme a sua sorella Alejandra, voce, chitarra e tastiere, Claudia, backing vocals, diciamo, e tastiere. Il nome della band, la scuola delle sette campanelle, Alejandra racconta che lo ha preso da un documentario dove si parlava di questa fantomatica accademia per borseggiatori colombiana, il cui esame finale costituiva proprio nel riuscire a rubare sette oggetti da sette tasche a cui erano attaccate delle campanelle. Quindi chiaramente la destrezza, l'esame veniva superato quando si riusciva a portare a termine l'opera senza far suonare la campanella, ovvero l'allarme. Noi siamo qui oggi per parlare di SVIIB, ovvero School of Seven Bells, l'album finale e omonimo, perché non poteva essere altrimenti, di questa band, e ci ascoltiamo On My Heart. Tutti i pezzi sono stati scritti, anche i testi, prima insomma, della tragedia che ha colpito Benjamin e anche Alejandra, e suonano in qualche modo profetici, mi raccontano proprio tutto l'arco della loro conoscenza, la loro esistenza, da quando si sono conosciuti e innamorati a quando poi sono diventati solo amici, mantenendo saldo il loro legame creativo. On My Heart. Say that you're in love, but just doing all the time. Amore è al sicuro, una rassicurazione anche dopo che la relazione finisce. Ci possono essere momenti di contrasto, momenti di dolore, momenti di cui non Alejandra non ha potuto parlare a Benjamin, perché Benjamin era un workaholic, facevano musica tutto il tempo oppure andavano in tour, super prolifici, direi anche nei primi dischi anche un po' prolissi nel numero e nella durata dei pezzi. E comunque dopo il terzo disco praticamente c'erano un sacco di cose non dette che Alejandra ha messo giù nei testi in quelle poche settimane dell'estate 2012, dove appunto furono gettate le basi, quindi creata l'ossatura di questo album. Ovviamente alla luce di quello che è successo dopo, come dicevo, questi testi sembrano quasi profetici, perché non si può evitare di interpretarli appunto pensando a poi alla, a quello che è successo dopo. Ma nel momento in cui queste canzoni sono state scritte era un momento di pace perfetta, dove sia a livello personale avevano raggiunto l'amicizia perfetta, lo stato di grazia, sia a livello creativo sia a livello umano, personale. E quando pensavano che tutto sarebbe stato possibile, che tutto era a portata di mano e che avrebbero avuto comunque un gran futuro, che comunque tutto quello che sarebbe arrivato, ed è arrivato il peggio, l'avrebbero affrontato insieme. E un riferimento musicale che si sente spesso nelle canzoni qua e là, negli album degli School of Seven Bells, è quello dei New Order, anche in un brano di questo album omonimo, ultimo, di cui parliamo oggi, che sentiremo più tardi. E questa è Regret, infatti, tratta da Republic del 95. Perché? Perché il 28 gennaio Alejandra, sulla pagina Facebook della band, ha messo questo link a una compilation, una playlist di Spotify di tutte le canzoni che avrebbero voluto, che avrebbero avuto l'intenzione, che volevano rifare, coverare. Lei è Benji, come lo chiama lei, e una di quelle era proprio questa, Regret. Playlist che ha postato Alejandra sulla pagina Facebook si chiama Covers from a Future Past Life, contiene pezzi anche di Killing Joke, ma anche di Johnny Mitchell e anche di Love and Rocket, che ascolteremo più tardi. E questo dimostra che c'è comunque una grossissima influenza del post-punk e della new wave, anche perché l'evoluzione musicale dei School of Seven Bells ha seguito un po' questa direzione, soprattutto culminata con Ghost Story e Super Shut Down, tutti due pubblicati nel 2012, quel 2012 che ha segnato veramente l'apice della loro carriera a livello creativo, a livello di produzione, ma si è appunto un suono sempre più verso l'electro synth-pop. E dopo il primo singolo My Cable e Alpha Sleep, altro singolo promozionale, come dicevamo, c'era stato il primo album Alpinisms pubblicato in ottobre 2008, per poi andare in tour negli Stati Uniti, immagino con Bad for Lashes, che stava promuovendo il suo Two Sons. Mi sembra veramente una coppiata molto giusta. E però siamo arrivati già al 2010, al secondo album Disconnect from Desire, più muscolare, più energetico e anche un po' sempre con questi suoni che mi richiamano un po' tra i cult e Siouxsie. Questa è Heart is Strange, seguito da ILU. Tanto queste muri di chitarra un po' distorta ed ondata di suono molto ma della montagna. Infatti sono sempre stati definiti anche shoegaze, dream pop, synth pop. Finisce I am you, I want you to know that I loved you. Altri singoli, Disconnect from Desire, era Windstorm e poi Heart is Strange, abbiamo sentito all'inizio di questo piccolo mix. Ma parlando appunto di cover, alla fine ne hanno registrate solo due praticamente nella loro carriera, uno Kiss Them For Me, non a caso i Siouxsie and the Banshees, e un'altra di Joy Ramone, e ne parleremo e l'ascolteremo dopo perché adesso siamo arrivati al singolo, almeno la canzone che ha anticipato a novembre l'uscita di questo disco, si chiama Open Your Eyes. tutti questi giorni, anche con questa canzone, mi faceva venire in mente qualcosa. Un po' tutte le canzoni di questo disco mi fanno venire in mente qualcosa di passato, di già noto, di non originale, però rassicurante, caldo, perché soprattutto fatto bene e pienissimo di sentimento. E essendo io, come si sa, iper emotiva e sentimentale, non potevo che perdermi in questo disco e in tutta la storia che lo circonda. Ma nonostante appunto le circostanze drammatiche che hanno visto il completamento di questo album, anche questo pezzo Open Your Eyes parla del post breakup, quando magari si è confusi, non si sa quello che è successo, perché sono andate male le cose. Allora lei cerca di rassicurare Benj dicendo: apri gli occhi, tu amerai di nuovo, perché comunque c'è tantissimo ottimismo che pervade questo disco, e alla fine non è una sensazione negativa. È triste, anche se, come dicevo, ovviamente col senno di poi non si può non riferire quasi tutti i testi a una situazione poi che si è verificata. Come dicevo, anche i testi sono stati scritti durante quella sessione di registrazione nel 2012 in uno studio di registrazione che era praticamente il quartier generale di TV on the Radio, che veniva frequentato molto da l'ex membro Aaron Fanning dei Chairlift, e quindi anche collegamento con episodi precedenti di Mighty FM, ma anche con Devonti Hines, che abbiamo sentito ultimamente spesso anche qui a Mighty FM, in una zona Williamsburg dove c'erano molti musicisti che avevano il loro studio di registrazione, come dicevo, gli Interpol, ma anche i Black Dice, ma anche i Battles. E soprattutto con Daniel Kessler degli Interpol c'era grandissima amicizia con Benjamin Curtis. Ovviamente le attività di School of Seven Bells erano anche molto quelle di attività live, come abbiamo detto, proprio on the road, che si sono incontrati e che poi hanno continuato sempre ad andare in tour, proprio registrazione, composizione, spesso appunto quando erano in giro, e poi registrazione di dischi. E almeno, penso, tra il primo e il secondo album, nella loro live band c'era James Elliott, musicista elettronico che incideva, non ha più fatto molto ultimamente, col nome di Ateleia, con cui Benjamin Curtis aveva fatto un pezzo, Baghdad Batteries, che ho cercato di mettere in playlist ma alla fine l'ho dovuto sacrificare. E poi c'era anche il batterista che era, faceva parte dei Bear in Heaven almeno fino al 2012, era Joe Stickney, e quindi ne approfittiamo per sentire cose che non abbiamo mai sentito a Mighty FM. Per esempio, sarebbe stato naturale sentire gli Interpol, i miei amatissimi Interpol, ma li ho sacrificati, per esempio, in questo pezzo di Bear in Heaven, Idle Heart, tratto dal disco del 2012, I Love You, It's Cool. Heart, tratta I Love You, It's Cool, qui batterista andava in tour con School of Seven Bells, abbiamo sentito prima due pezzi tratti da Disconnect from Desire, che segna un po' un punto di svolta nella storia di School of Seven Bells, perché non solo dopo 5 anni di storia la relazione, almeno a livello sentimentale, che non mette assolutamente in dubbio il proseguimento invece dell'attività come band insieme, e la relazione tra Benjamin e Alejandra finisce, ma durante il tour di supporto a questo disco, piuttosto inspiegabilmente, o perlomeno non ha mai voluto dire perché, ma solo insomma dichiarare che per motivi personali, ecco, Claudia lascia la band, quindi School of Seven Bells va avanti come duo. Tra l'altro, diversi singoli che hanno fatto la contenevano dei remix, anche insomma dei nomi della scena anche elettronica di quell'epoca, da Panta du Prince ai Phantogram a Active Child, facendo parte anche della stessa etichetta, la Vagrant in America, invece Full Time Hobby è l'etichetta che lo distribuisce negli Stati Uniti. Ma siamo arrivati ad un altro pezzo di Sveeb, ovvero l'omonimo School of Seven Bells, uscito il 26 febbraio scorso, A Thousand Times More. Thousand Times More, un pezzo che stavo definito insomma l'anello mancante, insomma il pezzo che colma il passaggio, il gap che segna il passaggio tra School of Seven Bells come shoegaze e invece questa versione synth pop così ariosa, così muscolosa. Thousand times. Ecco, non me ne vogliate, ma si sa che Mete FM a volte unisce il serio al faceto, e siccome questo suono così energico, così pop, così arioso, così cosmico, mi faceva venire in mente Madonna, o io questa canzone mi veniva di cantarla attaccata a uno dei pezzi School of Seven Bands, per cui l'istinto non mente, e quindi come citazione ho voluto mettere questa Turn Up the Radio, tratta da MDMA del 2012. Saranno contenti i madonnari, da Flavia a Giovanni, di questa citazione, ma insomma ce la teniamo sottofondo perché noi parliamo di School of Seven Bells, che la nostra fonte Metacritic di aggregazione delle recensioni dei principali media musicali ci dice che ha ottenuto un 83, ma secondo me è di più perché delle votazioni sono calcolate male, ma non mi dilungherò. Incredibilmente il voto invece degli utenti è 74, strano perché dico sempre che i critici sono più critici e invece i user, gli ascoltatori, i fan sono molto più entusiasti. Ma questo inizio quanto è New Wave, quanto è un po' Joy Division? Nei miei appunti ho scritto Joy Division, Sioux, Sisters of Mercy, Dot Allison, fino ad arrivare a Death in Vegas, slash Primal Scream di Some Velvet Morning. Ascolteremo un trittico tratto dall'album del 2012, Ghost Story. Low Times, questa è White Wind, e poi ascolteremo When You Sing, per un album che, come dicevo, segna poi il passaggio synth pop anche con delle influenze un po' più dark. Lo stesso Benjamin disse che insomma andare ancora in tour nel 2011, infatti esiste un tour CD con anche Matthew Dear, con gli Interpol, aveva un po' segnato questo suono. Disco che parla di fantasmi, dove c'è una voce narrante, un personaggio, un alter ego di Alejandra, ovvero la Fey, e le sue relazioni con diversi personaggi nella sua vita fin da bambina, dei 10-15 anni precedenti. Storie di fantasmi, fantasmi come insomma, quelle entità che ti accompagnano durante la vita, perché poi la vita di Alejandra sarà segnata da questa presenza di misticismo, di fantasmi, dei morti da parte di madre. Il business della famiglia era quello delle pompe funebri, e poi anche crescere in America Latina, l'influenza della religione, l'influenza anche della santeria anche presente in Florida. E questo finale è molto molto Stone Roses, When You Sing. We'll be right back. Guns N' Roses nelle percussioni, la ritmica, nel suono, le note, questa capacità di creare queste melodie così angeliche, e anche nell'uso della voce, nel tipo di voce, anche direi anche un po' dei tratti somatici. Alejandra somiglia molto la nostra amatissima Natasha Sand alias Butterfly Artist. Questi erano tre pezzi scelti, ma ce ne sono altre, tutto molto bello, Ghost Story. Forse è stata l'epoca di quel disco che ne ho sentito parlare, soprattutto per l'amore, per questo gruppo che ha Alberto. Diciamo che questa trasmissione, insomma, è anche un po' dedicata a lui. Questo sembrerebbe un pezzo di Cocteau, assolutamente. E invece è sempre l'album omonimo, il finale di School of Seven Bells, si chiama Elias. Dicevo, non c'è una canzone di questo disco che non sia rivolta direttamente da chi canta a un'altra persona. Questa persona è Benjamin, una cosa che aveva già fatto Alejandra, non è stata una cosa creata a causa della sua malattia e della morte. Nel febbraio 2013, dopo un anno, il 2012, che aveva segnato veramente il picco sia creativo che proprio di benessere a livello personale e a livello musicale della band, che poi appunto è un duo, dopo Ghost Story, dopo Put Your Sad Down, un altro EP di 5 tracce di cui purtroppo non ho potuto mettere un pezzo da questo disco, erano arrivate appunto a un punto di benessere e di grande creatività. E in Ghost Story si poteva sentire molto l'influenza del synth pop, sempre più dell'elettronica, e anche su Put Your Sad Down, e quindi questo album si inserisce in quella scia, continua questo stile musicale che ho letto in un'intervista del 2012, mi ha fatto molto ridere, è influenzato da suoni goth, come dicevo, dark, perché solo noi dark lo chiamiamo dark, il resto del mondo lo chiamano goth, ma anche appunto dance. E ho scoperto che esiste questo termine che è graver, che sarebbe un tombarolo o qualcosa del genere, ma in realtà è l'unione di goth più raver, ovvero chi ama la musica wave dark però ama anche ballare, oppure quei pezzi che comunque sono di quello stile ma sono anche molto molto ballabili. È Ellie ha definito questo disco una lettera d'amore dall'inizio alla fine. School of Seven Bells è la nostra storia dal primo giorno in cui ci siamo conosciuti nel 2004 e la storia proprio della band. L'abbiamo nominata diverse volte e ce l'ho voluta infilare perché ci ha dato un piccolo antipasto dell'album che verrà in forma di un invito per un matrimonio. Si chiama I Do e sembra essere l'anticipazione del prossimo album di Bad for Lashes, uscita prevista 1 luglio 2016. Till Death Do Us Part, forse è il titolo. Questo pezzo molto breve, I Do. Parentesi come Sex Witch, un EP dai toni molto cupi o sperimentali, Natasha torna alla classicità con questo pezzo delizioso, I Do. Ma noi parliamo di School of Seven Bells e viene uno dei pezzi un po' più elettronici, più mossi, che mi hanno fatto pensare ad un certo pop scandinavo. Signals. Questo passaggio mi ricorda tantissimo qualcosa. Penso che ricorda anche un po' Witch House di Zola Jesus e che viene, ce l'ho definito nelle recensioni che ho letto, un po' come la sintesi tra shoegaze, dream pop, così synth pop molto più arioso. anche lo Seven Bells sono stati definiti Dream Beaters, Dream Pop Heroes. Come dicevo, Metacritic dà un 8 abbondante per questo disco. Di media si parte dai voti più bassi, sono quelli di Spy Enemy, Spin e Enemy da 6. Tra l'altro la recensione di Spin è piena di errori, proprio di date, di nomi, di cose, di facce, quindi vabbè. E quello che si dice un po' in tutte le recensioni è che è quello che noi definiremmo un inno alla vita, life affirming, non saprei come altro tradurlo, bright synth pop. Magari viene rilevato il difetto che i cambi e i passaggi tra strofa e ritornello sono troppo simili. Consequence of Sound 6.7 dice: dicotomia presenza-assenza, Benjamin è everywhere and nowhere. E sempre per mandare nomi, cose, musica che non abbiamo sentito mai molto, queste sonorità mi hanno fatto pensare a I Am I, Who Am I? E ci ascoltiamo questo, non saprei come dire, You Too, tratto da Bounty del 2013. I Am I, Who Am I, un progetto audiovisivo in quanto ogni canzone è accompagnata da un video. La cantautrice svedese Jonna Lee e il produttore discografico sempre svedese Claes Björklund. Come le cose che vogliamo dire sono sempre troppe, ce lo teniamo in sottofondo, come al solito sono degli spunti, insomma dei collegamenti musicali che facciamo qui noi della redazione di Mighty FM, e poi chi gradisce può andare ad ascoltarsi, speriamo che vada ad ascoltarsi, soprattutto School of Seven Bells, album omonimo, capitolo finale definito una commovente eulogia, ovvero potremmo dire insomma un tributo funebre. Anche se Alejandra capisce come venga considerato in questo modo, ma non è un disco triste, non è un disco legato alla morte, perché è stato quasi tutto composto quell'estate 2012, ma anche durante la malattia, la diagnosi del linfoma linfoblastico a cellule T, a cui poi si sommò anche una leucemia durante il 2013, fu diagnosticata nel febbraio del 2013 e durante praticamente 10 mesi dentro e fuori l'ospedale, quando era possibile Benjamin continuava a produrre, perché ovviamente era lui il produttore della band, anche con il permesso dei dottori e delle infermiere, anche a crearsi un proprio studio di registrazione con chitarre, synth, computer nella camera d'ospedale, e a volte anche a fare carte false per poterne uscire dall'ospedale, per poter andare in studio e continuare a lavorare. Uno dei pezzi che però non era stato proprio completato nella sua struttura, perché insomma la regola base che si è data Alejandra insieme a Justin Meldal Johnson è stato lavorare appunto su pezzi cui Benjamin avesse dato il suo contributo, avesse fatto riff di chitarra, tracce di synth, lavoro di batteria, eccetera eccetera, è questa Music Takes Me. Di questo pezzo in realtà esisteva solo il ritornello e Alejandra l'ha voluta includere perché Benjamin era davvero entusiasta, innamorato di questo ritornello, però non esistevano i versi, le strofe, e avendo insomma un comprensibile blocco creativo per finire questa canzone, Alejandra ha chiesto l'aiuto della sua sorella gemella Claudia. Forse questo è un testo che si può far riferire a quello che è successo dopo, in quanto è stato composto successivamente alla morte di Benjamin, e c'è una frase che dice: voglio ringraziarti, grazie, grazie per tutto quello che hai fatto, che mi hai dato. Ovviamente rimettere le mani su questi pezzi non è stato facile. Dopo la morte di Benjamin, avvenuta il 29 dicembre 2013, Alejandra non poteva più ascoltare musica, la loro musica, né musica in generale. L'unica musica che sopportava era quella assordante nei bar o nei club. Diciamo che nelle interviste c'è un riferimento molto diretto all'alcol e più indiretto alle sostanze. Diciamo che sono stati mesi di stordimento volontario. E la necessità di lasciare quella New York che è sempre stata centrale, tutto era centrato sulla città, qualsiasi strada, qualsiasi riferimento era insopportabile, e quindi è stato necessario lasciare New York. E complice è stato anche insomma un viaggio fatto nel 2014 nel deserto del Joshua Tree per fare un video di un pezzo di cui parleremo più tardi, e quindi nell'ottobre 2014, armi e bagagli, Ellie si trasferisce a Los Angeles, dove incontra Justin Meldal Johnson, con cui già avevano avuto dei contatti, e capisce che è la persona giusta per completare questo lavoro. Comincia a riascoltare i pezzi che erano stati fatti, anche con l'aiuto di Brandon, il fratello di Benjamin, che passa in rassegna tutti i nastri, tutte le registrazioni che erano state fatte. E come riferimento, adesso torniamo al pezzo che magari sta andando in sottofondo, riferimento che mi è venuto in mente ascoltando molti pezzi è quello di Dot Ellison, chissà dov'è finita, ci chiediamo io e Alberto. Questa è la molto molto bella Strung Out, tratta dal suo bellissimo disco We Are Science del 2002. Yeah. li lascia a New York, dove c'erano troppi ricordi, troppi fantasmi. E nel giro di poche settimane, nell'inizio del 2015, viene portato a compimento questo album come un atto dovuto. Magari qualcuno avrebbe ritenuto che, vista la morte di Benjamin, tutto quello che era stato fatto sarebbe rimasto lì, non avrebbe prodotto nessun disco, nessuna canzone, non sarebbe mai stato pubblicato. E invece il fatto che Ellis sia riuscita a portare a compimento questa cosa, da una parte dice glielo dovevo, e dall'altra parte, visto che poi anche lo stesso contenuto dei testi che lei aveva scritto prima di sapere quello che sarebbe successo, era proprio il racconto della sua relazione, il rapporto diretto tra la sua anima gemella, tra il suo compagno, il socio creativo, tra il suo amante, il suo amico, della vita, come tutta lei dice, è sicura di averlo conosciuto mille anni prima nel passato, che sicuramente lo rincontrerà. E l'ha dimostrato appunto la grande voglia, la grande volontà e anche resilienza, resistenza, per portare avanti a compimento questo progetto. Ma durante i periodi in ospedale, come dicevo, Benjamin si è creato un proprio studio e produttore proprio fino alla fine, anche come insomma, azione per fare un po' fundraising, per pagarsi le cure, i trattamenti di chemioterapia, perché insomma sappiamo che l'assistenza medica, avere un'assicurazione medica, insomma, è un po' complicato in America, è molto molto costoso. Registrato proprio dal suo letto d'ospedale come ultima canzone proprio prodotta insieme, c'è questa cover che stiamo ascoltando in sottofondo. Si tratta di I Got Knocked Down But I'll Get Up di Joe Ramone del 2001, pubblicata poi nell'album postumo del 2002 Don't Worry About Me, perché appunto Joe Ramone muore nel 2001 dello stesso tipo di cancro al sangue che ha colpito Benjamin. E quindi, come un inno all'ottimismo, ma è andata male per tutti e due, hanno fatto questa canzone, questa cover, in cui il video, appunto, come dicevo, era il video di questa canzone che è stato fatto a Joshua Tree, che ha dato nuova forza a Ellie per completare questo progetto. Infatti è stato solo nel fine giugno del 2014 che è stato diffuso il pezzo e il video relativo, tra l'altro anche per raccogliere fondi su un benefit concert al Bowery Hotel di New York per raccogliere fondi per le chemioterapie di Benjamin, in cui parteciparono Radiohead e Coldplay, che avevano donato delle chitarre firmate e poi anche dei dischi, e poi Devendra Banhart e membri dei Strokes e Interpol avevano suonato. Ovviamente non potevamo attaccarci la versione originale di Joe Ramone. I got nothing but I'll get it. I got nothing but I'll get it. come abbiamo detto, nonostante i trattamenti, nonostante la malattia, Benjamin, quando poteva, voleva continuare a suonare, a produrre, e appunto c'è stata una volta in cui ha fatto i salti mortali, ha dato proprio di matto per poter uscire qualche ora dalla camera d'ospedale per andare nello studio, dove era tutta la loro strumentazione, dove avevano lavorato, insomma, fino all'anno prima. E in quelle poche ore ha cominciato a suonare le tastiere con una melodia così un po' cupa, molto intensa, evocativa, che è stata paragonata a quelle di Angelo Badalamenti. E nello stesso momento, assolutamente improvvisando, Ellie canta al microfono, e quindi l'unica canzone concepita, creata con la consapevolezza della malattia, è questa, che non a caso si chiama Confusion. In cui Ellie dice: tutti questi cambiamenti non riesco a capirli. Abbiamo passato così tanto tempo affrontando i giorni insieme che ho dimenticato come essere una cosa diversa da te. Quindi ovviamente questo pezzo, Confusion, fa parte dell'epopea, della storia, dell'arco umano creativo di School of Seven Bells, racchiuso in questo pianeta viola che è il mondo di School of Seven Bells, disegnato da Brian Collins, che ha fatto poi tutto l'artwork degli album precedenti della band. E l'ispirazione è stata pensata questa copertina quando c'è stata la Blood Super Moon, sai, c'è stata la Red Moon, la Blood Moon, la Pink Moon, la Blue Moon, queste lune piene dello scorso anno, ognuna aveva una caratteristica principale, e questa è stata l'ispirazione e la loro storia contenuta in un mondo che però brilla e pulsa, perché tutte le recensioni infatti parlano di questo bagliore, di questo calore che emana, queste metafore del fuoco, ma questo bagliore così rassicurante. Come dicevo prima, tra le cover che avrebbero avuto intenzione di registrare c'è Love and Rockets, grandi ricordi di infanzia, anche questo disco 1985, Seventh Dream of Teenage Heaven, e questo era il pezzo che volevano fare, ovvero Haunted When the Minutes Drag. I trace the outline of your eyes, blue in the mirror, hypnotized and haunted. Solitary hair, gold and still I reminisce, I'm haunted. Haunted by your soul. Daniel Ash e David J insieme a Kevin Haskins, ovvero metà dei Bauhaus, che si sciolgono nell'83 e che nell'85 fondano questa band Love and Rockets, in attività fino al 99. Poi ovviamente è arrivata la puntuale reunion tra il 2007 e il 2009, hanno suonato anche Lollapalooza, ma ce lo teniamo come sottofondo per scorrere sempre quello che ci siamo appuntate su questo disco delle varie recensioni che abbiamo letto. Suono ultraterreno nei loro dischi, adesso svib con il baratro tra vita e morte, la consapevolezza dell'epilogo pesa sull'ascolto, non si può fare a meno di sentire il dolore, ma c'è l'ottimismo. L'arte è sempre commemorativa, il prodotto della creazione artistica è nel passato, perso per definizione, e quest'album unisce questo aspetto con la perdita reale. Mix Mag 7, Ghost Story aveva segnato l'evoluzione da denso electro shoegaze a grande suono radiofonico, chitarre metalliche, riferimento a Reorder, e beat muscolose e melodie di synth intricate, c'è anche un riferimento ai Berlin, Take My Breath Away. Poi la sfilza di 8, da Uncut a Q Magazine a Mojo e poi Under the Radar, che lo definisce un very good pop record. Poi riferimento dei pezzi Signal, Music Takes Me, pezzi più electro, quest'ultimo Siouxsie più Depeche, The Behind the Wheel, Confusion, forza eterea e fragilità umana, non c'è nessun pezzo debole. Poi The Y-Mag, The Perfect Goodbye, due anni dopo, e nonostante il contesto che lo circonda, Svib è brillante e audace, luminosità inestinguibile, la metafora le fiamme fuoco, e testi in qualche modo profetici che danno un sapore agrodolce. Pop Matters 8, globo della copertina, racchiude la luce penetrante che ha guidato l'amicizia tra Alejandro e Benjamin. È anche un tema presente, quello della fede, della fiducia. E poi tantissimi otto tra Boston Global Music, New York Times, che dice di come questo disco racconti tutto il rapporto dall'infatuazione all'amore, ai contrasti, la separazione, ma l'eterno legame di amicizia, con echi retro che comprendono Cranberries, Tears for Fears, Stereo Lab, Joy Division e la Madonna di Ray of Light. Ma siamo arrivati al punto dopo Confusion, che forse è il pezzo più triste, il colpo più duro emotivamente, si finisce con una nota assolutamente ottimista, This is a time. Questo è il nostro tempo, il nostro tempo è indistruttibile. Stop. pezzo finale è una dichiarazione di ottimismo e anche, insomma, la soddisfazione da parte di Ellie di aver portato a compimento come una promessa con tantissimo amore e dedizione, un amore che trasuda da ogni pezzo di questo disco, che alla fine è un disco gioioso che non viene sopraffatto appunto dalle circostanze luttuose che l'hanno visto nascere o finire più che altro. E anche cinico a volte Pitchfork si unisce a questo coro di consensi dando un 8.1, dicendo che negli anni lo scopo del gruppo è stato ridurre tutto a verità emotiva. E questo disco non è solo il lavoro più riuscito tecnicamente, è un canto del cigno perfezionato, diciamo, ma un disco soprattutto vero. The 4-5 8.5, Drowning Sound, che da 9, dice che è importante tenere presente che l'incrollabile sentimento di Alejandra non nasce dal lutto, dal racconto di una relazione che dura ancora, e ringraziamento alla persona al suo fianco con cui affronta l'ignoto, e che si può godere di questo disco anche senza conoscere il background per godere di canzoni che sono belle e che segnano, insomma, l'apice creativo, come dice The Line of Best Fit, 9, e poi per arrivare al voto più alto, un bel 10 tondo, ma in realtà anche il voto di The Skinny, essendo 4 stelle su 4, direi che è un 10 e non un 8, che definisce questo disco un meraviglioso album synth, a rappresentazione di amicizia, amore incondizionato, una bellissima celebrazione di un legame che al tempo della sua creazione forse ancora aveva un futuro. E è con troppo in gola e lacrimuccia agli occhi, ma è prevedibile per chi ci conosce che Mighty FM qui finisce. Clara Mighty Mau vi saluta.